Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. Il patto di stabilità si applica a tutti gli stati in modo coerente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti. Viene fatto e sarà fatto alla luce delle circostanze specifiche a tempo dovuto. Per ora, dice il portavoce dell'Unione Europea per l'immigrazione, non speculiamo sui possibili flessibilità per le spese sostenute per rifugiati e per migranti. La Commissione Europea, in contatto con le autorità danesi, segue attentamente la situazione e rileva che ora la situazione si è normalizzata. Lo ha detto poco fa la portavoce Natasha Berthaud, sottolineando però che quanto detto ieri da Jean-Claude Juncker resta valido, ovvero che questo non è il momento per iniziative individuali, ma per una risposta coordinata. In Europa serve una politica comune sui rimpatri e il superamento delle regole di Dublino. Così questa mattina il ministro degli esteri Gentiloni, che definisce il blocco dei treni deciso da Danimarca sorprendente. Il ministro ha parlato alla Camera per la giornata europea. Sentiamo. O andiamo oltre Dublino, oppure per difendere la trincea di Dublino rischiamo di dover rinunciare a Schengen. E la rinuncia a Schengen sarebbe una ferita all'intero edificio dell'Unione Europea. Serve dunque il traguardo di un graduale asilo europeo, con liste europee dei paesi sicuri. Non è possibile che ciascun paese decida per conto suo quali sono i paesi che hanno per default diritto all'asilo e quali sono i paesi che invece tendenzialmente o addirittura per default sono sicuri. Servono regole europee comuni, con rimpatri finanziati e gestiti a livello europeo. I rimpatri non possono essere un problema della Grecia, dell'Italia e dell'Ungheria. Anche qui servono regole e impegni economici dell'intera Unione Europea. E pochi minuti fa, sempre alla Camera e sempre in questa iniziativa sulla giornata europea, ha parlato il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi. Ha detto che occorre riformare in profondità l'Unione Europea. Siamo convinti che bisogna rivedere i trattati, avviare prima possibile questo processo e non al 2017 o oltre, come prevede invece il rapporto dei 5 presidenti. L'Unione Europea è fiduciosa su un accordo con le autorità italiane sulla Bad Bank. Spetta all'Italia scegliere le modalità di creazione della Bad Bank. Così la commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, in un'audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato, aggiungendo poi che se viene istituita una Bad Bank che può dare vantaggi a determinate banche, a quel punto va imposta la condizione della ristrutturazione perché si utilizzano i soldi dei contribuenti. La questione è di quelle spinose, la gestione della grande massa di crediti deteriorati nel portafoglio del sistema bancario italiano, una zavorra che la Banca d'Italia quantifica a 350 miliardi di euro e che frena l'afflusso del credito nel nostro paese. La soluzione in esame ormai da diverso tempo è proprio l'istituzione della Bad Bank, una società che dovrebbe farsi carico dei rischi legati a questi crediti e liberare i bilanci delle banche. Le affermazioni ottimiste della Vestager sembrano allontanare il rischio di irregolarità legato a tale operazione, che potrebbe essere bollata da Bruxelles come un aiuto di Stato. Sì, perché la partecipazione dello Stato nella Bad Bank esporrebbe le casse pubbliche alle eventuali perdite legate ai crediti deteriorati. Per la commissaria europea, tuttavia, la Bad Bank si può fare con o senza aiuti di Stato e su questo punto sarà l'Italia ad avere l'ultima parola. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 14:05 minuti e 40 secondi vi saluta qui Daniele Biacchiesi. Europa 24 torna questa sera alle 21 all'interno di Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.